Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Alf. Ben ritrovati e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che questa settimana, anziché andare alla scoperta di libri, in questo giugno di libri come l'abbiamo definiti, va a riprendere quel calendario civile che avevamo un po' lasciato da parte e andiamo a pescare una data che ricorda un avvenimento che non potete non sapere. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della data del 14 luglio del 1948, quando avvenne il famoso attentato a Togliatti. Naturalmente la data è più avanti rispetto a questa giornata di trasmissione, ma Van Loon, il 7 luglio, segnatelo sul calendario, finisce, per cui abbiamo deciso di anticipare perché non potevamo non parlare, non potevamo ricordare questo importante anniversario. Siamo a Roma, davanti a uno degli ingressi secondari della Camera dei Deputati. È un evento noto quello dell'attentato a Togliatti, collocato qui in questa scena, Roma, entrata secondaria della Camera dei Deputati, perché nel clima arroventato di quei giorni, l'attentato al segretario del Partito Comunista Italiano rischiò di innescare un processo insurrezionale dagli esiti incerti, che i dirigenti comunisti vollero scongiurare, ma che una parte di quello stesso partito, senza dubbio minoritaria se non del tutto residuale, aspettava dall'aprile del 1945. Fra testimonianze, documentari e analisi storiografiche, l'attentato a Togliatti si qualifica come uno degli eventi chiave della storia dell'Italia repubblicana. Un evento su cui non possono fare a meno di tornare gli storici e, infine, un evento capace di fondare una tradizione e cristallizzarsi nella memoria di molti. Per questo, un evento che è diventato ben presto materia di racconti, storie e qualche volta persino di leggende e di invenzioni. Come testimonia la canzone che ci andiamo a ascoltare fra un minuto, Jacopo, l'attentato a Togliatti è un evento di forte impatto sulla cultura italiana e per almeno 3 decenni dopo la fine della guerra. Su di esso, infatti, oggi abbiamo deciso di tornare a riflettere, non solo perché sono passati quasi 70 anni esatti da quel 14 luglio, ma anche perché ci interessa provare a capire le ragioni di chi in varie zone in Italia e in parte anche sulle colline bolognesi ha ritenuto possibile un rovesciamento dell'ordine costituito e in quell'estate di attesa ha dissotterrato le armi, le speranze e i timori. Le ore 11 del 14 luglio, dalla camera usciva Togliatti, 4 colpi gli furono sparati da uno studente vile senza cuore. L'onorevole a terra colpito, soccorso venne immediatamente, grida il lutto ovunque si sente, accorron subito deputati e dottori. Montagna che è al Senato, con i dottori e tutto il personale, ha portato il marito all'ospedale, sottoposto alla operazione. Ma procediamo con ordine e proviamo a raccontare questa storia dall'inizio. La mattina del 14 luglio 1948 l'onorevole Togliatti si reca come di consueto a Montecitorio per svolgere le sue funzioni di parlamentare. In tarda mattinata il migliore, così lo si chiamava allora, lascia una Camera dei Deputati semideserta per prendersi una pausa in compagnia di Nilde Iotti, anche lei parlamentare molto nota, sempre di parte comunista. Del resto la storia d'amore fra i due non è più un segreto per nessuno e non c'è più alcuna ragione di continuare a tenerla nascosta. E la vita potergli salvare, destino contro gli attentatori della pace e della libertà. L'onorevole Togliatti auguriamo che ritorni ben presto al suo posto a difendere al paese nostro. Politico di primo piano, al vertice di un partito con milioni di iscritti e altrettanti elettori, Togliatti non va da nessuna parte però senza il compagno Armandino, Rosati, che ne garantiva l'incolumità. Quella mattina Palmiro, che mal sopporta di essere scortato, esce con Nilde Iotti dal retro del palazzo per godersi un gelato in santa pace. Le testimonianze di cui siamo a conoscenza raccontano di volti sorridenti e scambi di battute, ma ascoltiamo quei ricordi dalla voce di Nilde Iotti stessa. Lei non si ricorda di che cosa stavate parlando? Di una cosa molto semplice, di uno scaffale di libri che dovevamo sistemare nella casa dove avevamo traslocato da poco tempo. Noi percorremmo, uscendo da questa porta, pochi passi, arrivando grosso modo a quell'altezza. A quel punto ci furono 3 colpi di pistola, me li ricordo come fragorosi, e io vidi Togliatti cadere per terra. Naturalmente mi voltai e mi inginocchiai presso di lui e gli misi una mano sotto la testa per cercare di sollevarlo. Mentre facevo questo ho visto Pallante, più tardi seppi il suo nome, che stava su quegli scalini e che si avvicinò e teneva in mano una pistola lunga, lucente, un'immagine che io non dimenticherò facilmente, e sparò il quarto colpo su Togliatti, che era ormai per terra. Non appena i due mettono piede su Via della Missione, una pistola calibro 38 puntata contro Ercoli, ricordiamo Ercoli era il nome di battaglia di Palmiro Togliatti durante la Resistenza, una pistola puntata contro Ercoli esplode 1, 2, 3 colpi facendolo accasciare a terra, mentre la compagna gli si getta addosso in un gesto di istintiva protezione. Il killer fa ancora un passo verso i due e spara un altro colpo di pistola, ma sbaglia mira. Togliatti resta a terra quasi completamente privo di sensi, sanguina da un fianco e dalla nuca. Io gridai a quel punto, rivolta ai carabinieri che stavano sulla porta di Via della Missione 1 e sulla porta di Via della Missione 4, gridai: assassino, arrestatelo. A quel punto lo presero e così fu arrestato. Quando i medici della Camera arrivano in strada, la polizia ha già ciuffato l'uomo con l'arma. Si tratta di Domenico Antonio Pallante, un giovane di 25 anni non ancora compiuti, campano di nascita ma residente a Randazzo, poco distante da Catania. Di lui oggi sappiamo che fosse un ex seminarista, poi studente fuori corso alla facoltà di giurisprudenza, pare più per sfuggire alla naia che per una reale dedizione alla professione. Politicamente è un acceso nazionalista, passato dai liberali all'uomo qualunque, ma durante la campagna elettorale dell'aprile 1948 era stato attivista della Democrazia Cristiana. A quel punto uscirono dalla porta di Via della Missione 4 il giornalista Villata, i commessi della Camera, che poi raccolsero Togliatti e lo portarono nell'ambulatorio interno della Camera, che è pressappoco dove adesso. E lì corsero subito, perché naturalmente la voce si sparse in un momento, corsero subito il medico della Camera, che era il professor Lega, dei deputati medici, e furono appunto questi deputati medici, tra cui particolarmente un chirurgo siciliano, che consigliarono di portarla alla clinica di patologia chirurgica dove operava il professor Valdoni. Le testimonianze come quella che abbiamo appena ascoltato raccontano di attimi concitati e rapidissimi in cui sul corpo di Togliatti accorrono uscieri, parlamentari e compagni di partito. Un proiettile l'ha colpito in piena nuca, uno si è conficcato nel polmone sinistro, altri 2 colpi sono andati a vuoto, strisciandolo all'altezza della milza e piantandosi nell'intonaco del muro. Sul momento è chiaro a tutti che Togliatti è in bilico fra la vita e la morte. I medici della Camera intanto hanno avvertito il professor Valdoni del Policlinico di preparare una sala operatoria d'urgenza. È probabile che a quel punto Togliatti sia svenuto, ma nella memoria di molti testimoni restano attorniate da un'area di leggenda le parole che avrebbe sussurrato, e qui è interessante proprio il fatto che sia rimasto nella memoria questo momento e soprattutto le parole che lui avrebbe pronunciato. State calmi, non fate stupidaggini. Un invito alla ragione che fa il palo con le istruzioni consegnate a Nilde. Prendi la mia borsa e consegnala a Longo. Togliatti a quel punto si rivolse verso di me e mi disse solo due cose. La prima era, evidentemente rispondeva ai suoi sentimenti, avverti subito Aldo, che è suo figlio. E la seconda, prendi la mia borsa e portala a Longo. In ospedale accorrono subito i massimi dirigenti del PC, Amendola, Longo, Secchia, Paietta, ma anche alcuni esponenti democristiani. La CGIL cerca di tenere sotto controllo lo sciopero spontaneo che si sta espandendo assieme alla notizia dell'attentato. Il PC convoca una riunione straordinaria della direzione e il governo italiano, con De Gasperi presidente del Consiglio e Scelba ministro dell'Interno, dirama un comunicato in cui si condanna il gesto di un folle che ha agito in modo deplorevole ma isolato. Alcuni documenti della CIA, oggi invece declassificati, mostrano come i servizi di sicurezza statunitensi prendano inizialmente in considerazione l'eventualità che il colpo sia stata opera della lunga mano di Stalin. Ma le notizie che arrivano su Pallante sembrano confutare subito questa ipotesi, come avrebbe poi confermato l'indagine storica. Indagine storica, Jacopo, che non dimentichiamo, va avanti anche proprio in questi giorni. È recentissima l'uscita di un ultimo libro sull'attentato a Togliatti, Prove tecniche di rivoluzione, l'attentato a Togliatti, luglio 1948, firmato da Giuseppe Pardini e edito da Luni 2018. No, fra le altre cose, intanto grazie per il suggerimento bibliografico, Alf. Ricordiamo, approfittiamo, che come il podcast di questa puntata lo potrete trovare anche le informazioni relative al libro che Alf ci ha suggerito sul nostro sito internet www.radiovallun.info. Assolutamente. Ma appunto, come dicevamo, le notizie che arrivano su Pallante sembrano subito confutare l'ipotesi che si tratti di un regolamento dei conti interno al Movimento Comunista Internazionale. Però non c'è dubbio che a preoccupare la Casa Bianca, nonostante tutto, siano subito le mobilitazioni diffuse in tutta la penisola e in particolar modo al nord. La direzione del PC è infatti compatta nel chiedere le dimissioni del governo come sbocco inevitabile dell'imponente mobilitazione di massa, ma nessuno, in questo concordano documenti e testimonianze, prende parola a favore dell'insurrezione, nemmeno quel Pietro Secchia, che è il punto di riferimento di tutti gli ex partigiani e in particolare di coloro che considerano gli ultimi 3 anni di vita politica un momento di attesa in vista della presa definitiva del potere. Il giorno successivo l'Unità titola «Via il governo della fame e della guerra civile». Un titolo «Contro la guerra civile» avrebbe raccontato Ingrao, allora direttore del quotidiano, che continua. Quelle parole non erano scritte per caso, né per decisione mia. L'insurrezione non è un orizzonte plausibile. Il piano K, quello secondo cui il PC avrebbe dovuto prendere il potere, resta un abbaglio di quei prefetti e questori che ne parlano da mesi, contribuendo ad innalzare la tensione e il livello dello scontro. Vader. L'Europa in trance della guerra fredda, che talvolta oggi sentiamo rimpianta per la stabilità che pareva garantire, non si esauriva certo con l'enunciato delle posizioni fissate a Yalta nel 1945, quando i vincitori della guerra si preparano, come sappiamo, a diventare le più grandi potenze mondiali, capaci di spartirsi il mondo in due sfere di influenza. Sistemi ugualmente universalistici e contrapposti, che al tempo in cui Giovanni Lindo Ferretti dichiarava di volersi rifugiare sotto il patto di Varsavia, erano arrivati a teorizzare e praticare la coesistenza pacifica. Io dovrei bere un po' di questo amaro calice, io dovrei berne molto fino a toccare il fondo. Tattica, strategia, abnegazione, forza, ho il vuoto nella testa, mi muovo poco e male. Vacanze immaginarie nella nuova Cambogia, raduno dell'assalto al cielo di Parigi, weekend alle visibili nella vecchia Polonia, sotto con una presa di palazzi d'inverno. Ma nel 1948 le fratture della guerra fredda entravano prepotentemente negli equilibri interni di molti paesi. In Italia questo clima inasprisce contrapposizioni profonde, non sanate dalla pace né dalla Repubblica o dalla Costituzione. Ed è a questi aspetti che bisogna guardare se si vuole comprendere il gesto di Pallante, ma soprattutto le aspettative di chi interpreta quell'attacco come la scintilla che fa scattare l'ora X. Perché è così che una minoranza di ex partigiani aveva interpretato l'attentato a Togliatti. Il clima di quel 1948 era infatti particolarmente intenso, era molto teso, e tanto che qualcuno aveva iniziato anche a pensare di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e in particolare pensiamo a molti ex partigiani che avevano subito nei primi anni della vita della Repubblica degli episodi molto duri. Abbiamo afflosciato! Il presente è un mercato! Fatevi sotto, bambini, occhi gli spacciatori, occhi gli zuccherini! Diciamo che c'erano stati anche episodi di giustizia sommaria contro i nemici di un tempo, in particolare verso gli squadristi della prima ora. Contro gli autori di questi atti, la stampa e il sistema giudiziario repubblicano però sarebbero stati ben poco indulgenti. La stampa avrebbe agitato quello spettro del triangolo della morte che ha lasciato un'infausta ombra anche sul dibattito storiografico del nostro presente, mi permetto di dire. Il sistema giudiziario invece arrivando a chiedere pene severe anche per fatti avvenuti prima della fine della guerra. Sono i contorni del cosiddetto processo alla resistenza, ma nella mischia di criminalizzazione e dissenso politico finiscono anche molti lavoratori, braccianti, contadini, operai che hanno partecipato alle lotte del secondo dopoguerra. Si pensi soltanto che nella provincia di Bologna dal 1948 al 1953 vengono celebrati ben 4.000 processi che raggiunsero i 40 casi di media al mese nella fase più intensa di offensiva del sistema giudiziario. Denunce, misure cautelari, fermi ma anche vere e proprie torture raggiungono la massima intensità proprio all'indomani dei disordini seguiti agli spari di Pallante. Per due giorni interi la polizia di Scelba usa il pugno di ferro contro i manifestanti temendo il colpo di Stato. Il PC infatti è considerato una pericolosa minaccia alle istituzioni democratiche. Un partito bifronte che da un lato si mostra dialogante e capace di mediare solo perché dall'altro lato nasconde il suo volto autenticamente insurrezionale, allineato alle decisioni di Mosca con una struttura paramilitare funzionante e pronte a mobilitarsi come quinta colonna al momento dell'invasione delle truppe sovietiche. Senatore Secchia, in seguito alle conseguenze anche sanguinose dello sciopero generale, come si comportò il Partito Comunista? Beh, intanto noi prevedevamo che si sarebbe creata una situazione abbastanza difficile, perché è chiaro che l'attentato a Togliatti avrebbe sollevato tra le masse lavoratrici un'ondata di sdegno e di proteste, il che avvenne. Voi pensavate di poter controllare con facilità quello che sarebbe accaduto? Noi eravamo certi di poter controllare la situazione. Io so bene che è stata lanciata allora contro di noi l'accusa assurda, anche balorda, che si volle tentare l'insurrezione e che l'onorevole Scelba o il governo con le sue misure impedì l'insurrezione. In realtà nessuno pensò mai in quel momento a un'insurrezione, tant'è che venne proclamato uno sciopero generale e la parola d'ordine era: il governo dia le dimissioni. un'accusa di doppiezza, come si diceva allora, che peserà a lungo sulla storia dei comunisti italiani, ma è un sospetto questo della doppiezza che poggia su più di qualche appiglio e che rappresenta un cruccio dei dirigenti di Botteghe Oscure. A partire dalle tesi enunciate a Salerno da Togliatti nel 1944, infatti il ruolo del partito era stato completamente reinventato. Da strumento della rivoluzione mondiale era definitivamente diventato un attore della dialettica politica interna all'Italia repubblicana. È in questa strategia che possiamo misurare le famose parole di un intervento di Togliatti alla Camera, immediatamente precedente all'attentato del 14 luglio. Il 10 luglio 1948, infatti, durante una lunghissima discussione sull'approvazione alla Camera del piano Marshall, il segretario comunista aveva rimproverato al governo di subordinare gli interessi del paese agli interessi imperialistici di una superpotenza come gli Stati Uniti. Quando parliamo di guerra, noi comunisti sappiamo di parlare di una cosa seria, e se il nostro paese dovesse essere trascinato davvero per la strada che lo portasse a una guerra, anche in questo caso noi conosciamo qual è il nostro dovere. Alla guerra imperialista si risponde oggi con la rivolta, con l'insurrezione per la difesa della pace, dell'indipendenza, dell'avvenire del proprio paese. Oggi, di fronte a queste parole, siamo obbligati a chiederci che cosa intendesse veramente Togliatti. Un richiamo alla forza organizzativa del suo partito contro la prepotenza del governo ringalluzzito dalla vittoria del 18 aprile? Oppure un messaggio rassicurante a quella base del partito nel tentativo di declinare le loro spinte in senso progressista e appunto di ridare significato all'aggettivo comunista? Di certo non è quello, questo possiamo assolutamente affermarlo, direi Jacopo, non era una chiamata alle armi, non era un tentativo di mobilitare la base per l'insurrezione, questo non è l'orizzonte certamente non di Togliatti, ma è certo che così, in questo senso, molte persone in quel 48, in quel luglio 48, interpretarono le parole di Togliatti, soprattutto da certa stampa. Mentre il migliore sotto i ferri del professor Valdoni a Roma è anche sotto la vigilanza del partito, ma tutto il paese è in subbuglio. I lavoratori delle fabbriche, delle miniere e dei trasporti pubblici sono scesi nelle piazze, la polizia carica e disperde le folle, il sindacato non può fare a meno che indire uno sciopero generale di 48 ore. Le parole "non fate stupidaggini", che Togliatti le abbia pronunciate o meno, rappresentano la linea del partito, ma il modo in cui dirigenti e quadri comunicano e tengono sotto controllo la mobilitazione lascia spazio ad alcune ambiguità. Cosa si fa se il governo non si dimette dopo due giorni di sciopero generale? Nel centro-nord della penisola, gruppi di ex partigiani hanno recuperato le armi non consegnate alla fine del conflitto e sembrano pronti a guadagnare militarmente il controllo dei punti nevralgici del paese. A Venezia, Genova, Milano, le fabbriche principali sono presidiate e occupate dagli operai. A Livorno e Taranto, due poliziotti vengono uccisi. Nei maggiori centri urbani vengono attaccate le sedi dei partiti governativi. Dappertutto ci sono scontri con Cellerini, il nuovo corpo di polizia voluto da Scelba. A Milano, il comunista Alberganti dichiara davanti a una piazza Duomo gremita che il 18 aprile in Italia ci siamo contati numericamente. Oggi ci pesiamo, questo sciopero non finirà né oggi né domani. Ad Abbadia San Salvatore, nell'Appennino toscano, i minatori entrano in sciopero appena arriva la notizia dell'attentato. Tutto il paese si solleva quando si sparge la voce che in Italia è in corso la rivoluzione e in un attimo la caserma dei carabinieri viene circondata, mentre la centrale dei telefoni di Stato del Montamiata si tagliano i fili telefonici. Il 15 luglio arrivano i primi nuclei di polizia. Bloccati da grossi tronchi all'ingresso del paese, ne nascono violenti tafferugli che portano all'accoltellamento di un maresciallo del reparto Cede. L'indomani, il piccolo comune montano viene occupato da oltre 500 soldati che, dopo aver rastrellato l'intero costone montano, arrestano oltre 250 insorti e li sottopongono per giorni a pesanti servizi o torture. Ma prima di lasciarvi, non vogliamo eludere la domanda che forse vi state ponendo. Che cosa succede nella rossa Bologna mentre in Italia si sogna e, come abbiamo visto, in alcuni casi si lotta per la rivoluzione? Niente di paragonabile alla Miata, è ovvio, ma nemmeno a ciò che accade a Milano o a Genova. Le carte della prefettura conservate presso l'archivio di Stato della nostra città infatti ci danno notizie di diversi incidenti durante comizi non autorizzati, qualche episodio di violenza fisica contro ex fascisti, agricoltori, agenti di credito e a Imola addirittura un maggiore dei carabinieri che viene malmenato. Qua e là ci sono blocchi stradali. Non lontano dagli studi di Radio Città Fucico, nel cortile della chiesa del quartiere Pescarola, ad esempio, vengono lanciate 4 bombe a mano, senza provocare feriti. In alcune fabbriche, come la Ducati o la Weber, gli operai si preparano a resistere, anche in armi. Ma in generale l'Emilia si adegua compatta e disciplinata alle direttive che vengono da Botteghe Oscure. E al termine dello sciopero tutto sembra rientrare. I giornali dell'epoca parlano infatti di un celerino di Castenaso pugnalato, mentre alcuni siti web riportano la notizia che nella conta dei morti sarebbe anche da aggiungere un operaio ucciso a Bologna. Di entrambi questi avvenimenti noi non siamo stati in grado di recuperare altri dettagli nella letteratura uscita successivamente, quindi la cosa ci spinge un pochino a pensare che si tratti di errori o di piccole confusioni. Ma non c'è dubbio comunque che anche nel bolognese ci furono momenti di altissima tensione, che per poco, per pochissimo, non sfociarono in qualcosa di più. Uno fra tutti è il caso di Monteveglio, dove il municipio viene occupato da ex partigiani che, puntati mitra verso la strada, attendono invano le camionette dei carabinieri. Invano perché pare appunto che il farmacista del paese abbia intercettato i carabinieri che stavano proprio salendo verso il comune di Monteveglio e li abbia allertati dell'imboscata. Così i primi che arrivano dalla città e arrivano su a Monteveglio sono quelli della Federazione Comunista, sono i dirigenti che ovviamente vanno su lì a ristabilire la linea del partito e a calmare le acque. E c'è da credere che per poco i ribelli della montagna non abbiano sparato anche a loro. Bene, il nostro racconto del 14 luglio del 1948, data dell'attentato a Togliatti, si conclude qua. Abbiamo inserito un'altra data nel nostro calendario civile che potete ritrovare sul nostro sito www.radiovallun.info e assieme al podcast di questa puntata e a tutte le altre puntate in cui abbiamo cercato di raccontare delle date che per noi sono importanti e che ci permettono di raccontare le storie. Appuntamento alla prossima settimana con l'ultima puntata della stagione. Quest'anno ci siamo spinti abbastanza in là con i tempi e però per adesso vi auguro un sereno proseguimento di giornata. Ciao a tutte e tutti da Frey e Alf. Ciao.